facciamo gli sfigati, poi li studiamo. Una cartolina con scritto, fra 5 minuti questa carta esploderà. Non guardate questi sfigati, sono la bomba in faccia che esploderà. Oppure quando giochiamo a calcio, a chi ci fa di traccio? Nella partita fa un volo che lo riduciamo uno straccio. Oppure inculiamo le suore che a volte sono buone. Diciamo che ci definiscono anche tromba suore. Non facciamo una minchia, sai cosa facciamo? Andiamo, giochiamo, stupiamo le bambole. Ad esempio quella di ieri, se tu c'eri, vedevi come urlava nel palco, tu cadevi. Se sentivi tutti i rumori, ridevi, diventavi talmente scemo che bevevi porca troia una settimana di tempo. Che quando saltava facevamo sempre salti in padella. Cazzo, e quando saliva in sella non la smetteva più e diceva: dai sera, su, su. Invece io, Dad, stavo dall'altra parte a preparare le carte per un appuntamento, anzi un'orgia. Beato me e tre ragazzi, io solo che intanto preparo la mia torcia, che da come mi hai detto si accendeva ogni volta che ne vedeva una. Per quanto erano sexy facevano diva, ti farò fare una laguna. Sottinteso di sbora e lui dice ad ognuna: venite qui, la mia torcia è pronta. Tanto io sono una persona sciolta, a letto sono una persona colta, come il mio amico Serra, che quando la scopava l'ha buttata a terra. Lui quando un attacco spera non finisce più, lo devo fermare io. Dai basta, l'hai spaccata zio. Dopo che abbiamo fatto questo piccolo passo tempo, pensiamo ad altro, se no dopo mi inceppo. Perché dobbiamo fare un piccolo ricamo alla nuova Lamborghini di Anzibeg, che solo grazie a quello con le donne va in cima, yeah. Sera invece ancora con la bicicletta, che però fa come si comporta a letto, va veloce come una saetta, va veloce come una saetta. Quando ho inviato una base del contempo, se ne gli ho detto accetta, lui mi ha detto aspetta. Si era accorto che era una canzone di Celentano, con tutto il rispetto di Celentano, che è un veterano, un tipo che fa il suo mestiere quando canta. Non so perché si mette a sedere, boh. Dad si mette seduto perché all'interno della sede c'è un vibratore, invece G7 tiene sempre il microfono in mano, perché gli ricorda l'ardore delle ragazze che si è scopata. Si è fatto tutto l'alfabeto, gli manca la lettera P, oddio. Forse è Dad il prossimo. È impossibile che sono gay, se lo faccio vuol dire che sono tossico. Le nostre cazzeggiate ci sono anche se basaltate. Sera Dad, ognuno per i cazzi su a dormire, e poi un altro giorno il quartiere si comincia a sentire. Noi siamo gente che va a svenire, a svenire le donne, gli sfigati e fra. Vabbè, a volte fa, intanto ormai si sa com'è la roba quotidiana. Di certo che non è una cosa di gente sana.